Allora, Entrotale Festival 2025, diffuso e sostenibile, e vorrei che ci raccontasse che cos'è la coprogettazione, quanto è importante per poter definire così un festival. Ah, per noi è determinante perché è il modo per, come dire, mettere a sistema le risorse, le competenze e la conoscenza del territorio. Oggi più che mai c'è bisogno che ci sia uno scambio, no, tra il territorio e chi programma cultura, proprio uno scambio reciproco, perché è il modo per, come dire, innovare questo settore della programmazione culturale, degli eventi che sì, dopo il Covid ha avuto un grande boom, ma che sta cominciando a uscire fuori proprio la dimensione della bolla, di questa dimensione dell'evento. Quindi relazioni sempre più forti, sempre più dinamiche con il territorio e la coprogettazione è lo strumento corretto. Allora, come gli altri anni è diffuso il festival perché passa dall'Emilia-Romagna, alla Toscana, al Lazio, e ci può dire qualche artista? Il programma è molto corposo, qualche artista particolare, qualche evento che le piacerebbe ricordarci, e poi le vorrei chiedere della nuova biglietteria. Allora, sì, niente, gli artisti che sento sono tutti nomi grossi, ma è molto bello l'idea dell'inaugurazione dell'apertura della rassegna Maccaferri con Patrizio Roversi, che sarà un'intervista impossibile, un format di Rai 3 che viene riproposto con questa intervista impossibile a Maccaferri con Patrizio Roversi, che sarà a 100 il 18 di luglio. Oppure in Toscana, con Odecaton, con la missa Pape Marcelli dentro una abbazia sconsacrata del 1100 meraviglioso, oppure Goran Bregovic sul palco sul lago, che sarà, come dire, un'esperienza trevignano-romano in Lazio con il tramonto, no, sul lago. È l'ultimo evento, aggiungo, che infatti Ah, non è prego, scusi. uscito, che mi è Certo. tornato in mente, che è a Terballetto faremo questo primo evento di microdanze, a Terballetto, che è un progetto proprio di valorizzazione attraverso la danza diffusa all'interno dei borghi. Quest'anno lo sperimenteremo su Borzano di Canossa, un borgo, e speriamo che l'anno prossimo possa diffondersi su vari luoghi e diventare una delle leve di una collaborazione importante come la Fondazione Nazionale della Danza a Terballetto. La biglietteria, sì, la biglietteria è stata una scelta sicuramente molto difficile da portare avanti in termini economici, però di grande valore, trasparenza, valori sui quali crediamo. Cioè, è un prezzo, acquistando online il prezzo è scontato, ma è un prezzo trasparente. Quindi il prezzo che si vede esposto è il prezzo finale che quando si fa paga con carta di credito e rimane quello. Questo è un prezzo anche perché è un sistema ovviamente digitale che può creare ovviamente degli ostacoli di accessibilità, ma stiamo anche lavorando per dare assistenza, per cercare di favorire l'accesso al digitale in tutti i territori in cui siamo e quindi rendere l'esperienza dell'acquisto di un biglietto parte integrante dell'evento. Grazie.